Eccoci allora la soluzione del quiz. Se galleggiate all'interno di una stazione spaziale non c'è storia, non si pesa mai un po' meno, non si pesa e basta, quindi niente appoggiamenti su bilance. Se poi due astronauti si spingono anche pochino pochino, l'astronave dovrebbe avere un corridoio di 300 metri prima che forse l'attrito con l'aria li fermi. La molla con la maniglia invece funziona, nello spazio si galleggia ma non è che la massa del corpo se ne va via, non c'è la forza peso ma non la massa, sollecitata dalla massa la molla si contrae e si espande in modo direttamente proporzionale alla massa stessa. Questa è la soluzione.